Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dal mondo della scuola, bentrovati da Mirko Cavallini studio e di Daici in regia. Oggi studio affollato, grazie anche alla collaborazione e all'opera del nostro Don Edmondo Lanciarotta, bentrovato. Bentrovati anche voi tutti e grazie del vostro ascolto. In qualità oggi di insegnante, perché ci hai portato un po' di tue alunne. Sì, di due classi, una quarta liceo delle scienze umane e due ragazze della quinta sociale. E allora, facciamo parlare del subito Duca degli Abruzzi. Del Duca degli Abruzzi di Treviso, chiaramente. Sono Laura, che è di classe quarta, Anna e Giulia, che invece sono di classe quinta. Recentemente, tutte e tre, con altri compagni e compagne, soprattutto di classe, avete partecipato ad un'esperienza, un viaggio di istruzione, forse anche qualcosa di più che istruzione, direi, visto che siete andate dove, Laura? Vuoi dirlo tu? Allora, siamo andati la settimana scorsa, abbiamo fatto Vienna, Cracovia e abbiamo passato anche Auschwitz per poi arrivare gli ultimi giorni a Praga. Questo era, diciamo, il viaggio complessivo, esatto. Però ci focalizziamo ovviamente sulla tappa di Auschwitz. Sì, sulla tappa più riflessiva, che è senza ombra di dubbio Auschwitz. Ecco, come siete stati preparate a questa tappa particolare? Anna, Giulia, chi vuole spiegare? Beh, abbiamo iniziato a parlare di queste tematiche alla giornata della memoria e abbiamo visto parecchi film come Schindler's List e Il pianista. E poi appunto abbiamo fatto parecchie conferenze con la nostra professoressa Maria Luisa Marconato, che ci ha preparato appunto mentalmente, diciamo, a questo evento. E anche dal punto di vista storico, voi, senza esatto, dubbio, la nostra preside ci ha fatto da guida. Introduzione, esatto. Anna, poi arrivare lì com'è stato? Perché un conto vedere le fotografie, i film, eccetera, un conto essere lì. Diciamo che è tutta un'altra cosa sentirlo e vederlo per TV, e arrivare lì è proprio un'emozione pazzesca, perché tocchi con mano proprio la realtà che era in quei giorni, insomma, e siamo stati proprio nel posto preciso in cui le persone venivano deportate, venivano portate nelle camere a gas, e sì, è stato veramente emozionante. Ovviamente ne avrete parlato anche dopo, suppongo, perché il viaggio l'avete appena fatto, quindi l'emozione è ancora abbastanza viva, no, Giulia? Nel ritorno, magari in pullman. Sì, diciamo che la riflessione principale era quella che, nonostante appunto fossimo lì nel posto in cui era accaduto tutto quanto, abbiamo trovato la difficoltà nell'immedesimarci nel dolore provato, e che comunque, nonostante tutti i nostri sforzi, non arriveremo mai a comprendere veramente le sofferenze che si provavano. Laura, a caldo, insomma, il racconto, l'aver visto quei posti dopo averne tanto sentito parlare o visto? A me è piaciuto particolarmente la guida, perché era una guida che aveva vissuto la testimonianza da parte di una sua zia che fu deportata, quindi era interessante, ad esempio, il fatto che mentre stava raccontando avevamo dei testi scritti in tedesco. Gli ho detto: beh, a me non piace il tedesco, quindi per quello abbiamo tradotto in inglese, perché comunque rimane a caldo questa sofferenza che porterà per tutta la vita. Questo è sicuramente tra quelli che avete fatto il viaggio di istruzione negli anni forse un po' più forte, perché le altre mete magari sono state generalmente più turistiche, immagino, negli anni, o no? Sì, beh, senza dubbio abbiamo fatto esperienze molto più semplici, anche se 2 anni fa abbiamo partecipato a un viaggio coinvolto con la mafia a Palermo e ha partecipato anche personalmente alla visita di Radio Out, ma senza dubbio appunto questa gita è stata la più emozionante, grazie appunto alla visita di Auschwitz e Birkenau. Cosa... per chi non c'è mai stato, io ad esempio non ci sono mai stato, ho solo letto, raccontato anche tramite le canzoni, la musica, come lo raccontereste a chi, come l'avete raccontato magari ai vostri familiari, parenti, amici che non sono venuti con voi, Anna? Beh, di certo è difficile spiegare quello che abbiamo visto, quello che abbiamo provato noi in quel momento. E bisogna dire che quando magari noi parliamo di fame o di sete o di stanchezza, non si può cioè si dovrebbe quasi inventare un altro vocabolario, perché non è la stessa stanchezza o sete o fame che loro hanno provato in quel momento, e quindi è molto difficile, insomma, spiegarlo. Laura, tu tornando a casa, non so, con i tuoi parenti, altri amici al di fuori della scuola, o quando hai detto vado ad Auschwitz? Sembrava un pugno nello stomaco inizialmente, perché pareva, sì, una cosa molto difficile, non sapevo neanche se sarei riuscita a capirlo oppure farmi prendere troppo dall'emozione. Però sì, per fortuna siamo riusciti a comprenderlo anche dal punto di vista razionale. Infatti a me è piaciuto il fatto della speranza, che fin dall'inizio c'è sempre stato questo elemento della speranza da parte appunto dei tedeschi, del rigore, il fatto che volevano portarli alle docce facendoli credere di spogliarsi, lavarsi, poi alla fine succedeva quello che purtroppo succedeva. Quindi sì, c'è sempre stato questo stato d'animo fino alla fine di speranza. Infatti a noi particolarmente ci ha colpito il fatto che c'erano venuti degli israeliani quando siamo andati appunto ad Auschwitz, che esorcizzavano questo dolore ridendo, scherzandosi, anche il fatto di vestirsi di bianco. Quindi sì, ha una simbologia un po' nello diversa. Stile della Vita è bella di Benigni, se l'avete visto. Sì, sì, ecco. Sì, senza ombra di dubbio. Questo è un racconto, dunque, una delle esperienze che gli studenti vivono. Ne raccontiamo altre, perché poi non fanno solo questo, ovviamente, gli studenti a scuola e fuori della scuola, come sentiremo tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Adesso resto per un po' da solo, meglio così. Io per il mondo oggi non ci sono e voglio restare con me stesso a pensare. Se solo adesso mi fermo ancora mi sembra di sognare. Una foto con i miei, attrae il mio sguardo in quello scatolone. Ricordo, sai, era la mia prima comunione. Un caldo infernale, un pranzo con poche persone. Quel vestito nuovo rotto, poi giocando a pallone. E ancora eccole qui, tra mille foto impolverate. Vedo così le mie emozioni immortalate. Troppi ricordi, momenti incancellabili. Mentre una lacrima disegna un sogno, guarda mio padre qui baffi, siamo nei 70, quel pancione mia madre lo porta sei contenta, le foto alle elementari, in bianco e nero a colori, guarda questa non ci credo, me lo sai, sembra ieri, Cerco sogni porto, un ricordo, oh, e sembra che il tempo non sia mai trascorso, è un brivido. Parenti, con le mie pettinature quando stavo sui venti. Mi fermo un attimo qui, o meglio mi si ferma il cuore. Ma non tratto così, ritrovo il primo grande amore. Resto senza parole, lo sai che eri bellissima. Guardando dietro c'è un cuore, due frecce ed una dedica. Saremo insieme per sempre, tu sei la mia vita e un sorriso innocente. Per poi com'è andata, troppo distanti ma troppo simili. Sono i tuoi occhi a suggerirmelo, qui non hai alibi. Ritrovo serenità quando rivivo quei momenti. Anni rivisti in pochi istanti, guarda questa è l'arena, ero a vedere Vasco, la metto sul comodino, accompagnerà questo mio testo e cerco sogni volto, un ricordo, oh, e sembra che il tempo non sia mai trascorso, è un brivido, chiude lo stomaco. Voglio me la stacco dalla pagina, è la più vecchia, c'è tutta la comitiva. Sembra persino che anche il sole sorrida. Quando sembriamo diversi, sempre gli stessi, alcuni si sono persi, ma noi ci siamo ancora, allora scatta subito. Così per sempre avremo accanto il nostro pubblico. Cerco sogni volto, un dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme dal mondo della scuola per raccontare esperienze che gli studenti vivono, non solo studiare le materie, come giustamente bisogna fare, ma anche vivere alcuni aspetti, ad esempio della storia. Citavamo poco fa la visita ad Auschwitz, ma ci sono progetti più ampi che riguardano anche altre scuole del territorio che si allargano nel corso di tutto il percorso di studi. Il progetto Pace in particolare, Don Edmondo, due parole. Sì, il progetto Pace ha una storia più di 10 anni, è nato all'interno delle scuole prevalentemente del Veneto, Treviso, e poi si è esteso a livello del Veneto e poi tutta Italia, e in questi ultimi anni ha avuto anche contatti con viaggi umanitari anche con stati limitrofi, la Slovenia, ecco, l'Austria, ecco, e si è esteso quell'incontro di studenti di scuole superiori, anche scuole medie, anche scuole della primaria, che attraverso il lavoro con i loro insegnanti elaborano un progetto di educazione alla mondialità, alla pace, alla fraternità e al dialogo tra i popoli. E allora vediamo concretamente come questo progetto è stato vissuto. Giulia e Anna, perché Laura invece non ha avuto l'occasione di parteciparvi, in tutti gli anni, cioè fin dalla prima se non sbaglio. Sì, sì. Ecco, citateci qualche esperienza, Anna o Giulia. Siamo partiti dal primo anno appunto e siamo arrivati fino all'ultimo partecipando regolarmente e attivamente a questo progetto Pace. Il progetto Pace appunto è un meeting che affronta ogni anno comunque tematiche diverse. Ad esempio l'anno scorso era la tematica delle guerre religiose e tra l'altro siamo arrivati anche terzi. E niente, ci prepariamo affrontando questo progetto con delle coreografie, delle musiche, dei video e dei canti per appunto trasmettere il messaggio della pace universale. Concretamente voi ci lavorate durante l'anno a quello che alle performance, diciamo così, o ai progetti che volete presentare, e poi c'è un momento comune in cui vengono esposti, cioè funziona così? Sì, al teatro Geox c'è la giornata, appunto, questa giornata dove tutte le scuole si riuniscono e ogni scuola ha preparato appunto una performance che verrà appunto mostrata appunto da tutti. A tutti quanti, insomma. Può essere una performance da palco, cioè tipo teatro, oppure una mostra, sì, oppure... Può essere magari una specie di... una scena, una scenetta, può essere una coreografia, oppure può essere anche magari... l'anno scorso dei ragazzi si sono esibiti suonando delle chitarre o i flauti, eccetera. Ognuno in base a quello che sa, quello che sa fare e a come può, insomma, trasmette questo messaggio. E avete anche vinto, dicevi? Cioè nel senso che c'è una classifica, una specie di concorso? Sì, infatti tutte le performance sono giudicate e i primi 3 posti appunto hanno come premio la targa del progetto Pace. E voi ce l'avete? E noi sì, l'anno scorso siamo arrivati terzi e invece l'anno prima quinti. Beh, insomma, vi siete sempre distinte. Cosa avete, raccontateci magari l'ultima insomma che avete preparato, quella di quest'anno? Beh, l'anno scorso abbiamo preparato una performance ballata con un video e eravamo divisi in ragazzi vestiti di nero che rappresentavano appunto il dolore o comunque l'aspetto negativo e ragazzi vestiti di bianco, mentre quest'anno ci stiamo preparando sempre con performance ballata e cantata, ma è ancora diciamo in programmazione. Non possiamo svelare molto. Perché l'appuntamento è all'inizio di maggio. Sì, è il 6 maggio. 6 maggio, ecco, quindi con tante altre scuole che vengono dal Veneto. Vengono da tutta Italia. Da tutta Italia. Sì, anche con gemellaggi all'estero. A proposito di estero, oltre ai viaggi di istruzione che citavamo prima, avete avuto rapporti con altre scuole, con studenti stranieri nel corso degli anni? Sì, abbiamo avuto uno scambio con la Macedonia, che sono venuti a visitare la nostra scuola, e ultimamente, anche se non ha coinvolto le nostre classi, con la Francia. Ecco, cosa avete imparato da queste esperienze? Oltre al fatto che parlano una lingua diversa o l'inglese meglio di noi? Che tutti quanti, unendosi per un obiettivo comune, si riescono a raggiungere molto più facilmente. Ricoinvolgo anche Laura su questo aspetto. Chiedo anche a te se avete avuto esperienze nella tua classe, esperienze di scambio tra studenti o di incontro quantomeno. No, purtroppo, solamente la settimana scorsa, non essendo coinvolti, però abbiamo ospitato alcuni francesi che hanno seguito una lezione italiana perché dovevano imparare l'italiano. Ovviamente sanno meglio l'italiano di noi rispetto a noi francese, ma è stato bello comunque capire loro... Questi sapevano già l'italiano, lo studiano già. Sì, perché è la loro terza lingua, quindi sì, è interessante vedere insomma come si approcciano e anche il loro modo di valutare o di concepire la scuola. Ecco, che differenza, magari ne avete parlato fra di voi, ma che differenza avete colto tra... Cioè loro cosa vedono di strano o di particolare nella scuola italiana o che cosa vi raccontano loro della scuola francese? Beh, ad esempio la valutazione che è in centesimi, invece da noi è in decimi, oppure che dura, inizia un anno prima la scuola, cosa che da noi invece inizia a 7 anni, invece loro inizia a 6 anni e dura 4 anni. Le medie invece da noi 3. Sì, solamente questione di anni, di età. Di età, mm-mm. Ok. E voi invece parlando con gli altri studenti, cosa avete scoperto a proposito di scuola? Differenze o analogie? Credo, ovviamente è soggettiva come cosa, però credo che loro affrontano la scuola con una serietà maggiore rispetto alla nostra e hanno anche degli orari molto più fissi, dei rientri, mentre noi almeno come Duca degli Abruzzi non abbiamo. Siamo un po' più free. Sì, più liberty. Va bene, allora tra poco raccontiamo altre esperienze di viaggio dopo l'ultima pausa. Dal mondo della scuola. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Now Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, ricca di esperienze, di iniziative che allargano anche il modo di fare didattica. E chiedo a Don Edmondo, è importante insomma che non ci sia solo il metodo frontale, cattedra, banchi, lezione, ma che poi le esperienze siano effettivamente anche vissute, magari con testimonianze esterne o anche all'esterno fisicamente della scuola. Sì, è la concezione di scuola che dovremmo un po' ripensare, non è un oasi, non è un chiostro separato, è una piazza e quindi che vive il mondo, è una scuola inserita nel territorio, è una comunità educativa dentro un territorio che dovrebbe essere educativo e quindi sotto questo aspetto qui, ecco, quanto più c'è un dialogo educativo, un dialogo istruttivo, un dialogo culturale, un dialogo critico, ecco che allora questi studenti dovrebbero essere aiutati, speriamo che siano aiutati, a diventare i cittadini del mondo. Nella cittadinanza e nella società c'è anche il carcere, da noi non c'è, però in altri stati esiste la pena di morte e alcune di queste studentesse che abbiamo in studio hanno avuto l'occasione di incontrare persone che erano state condannate a morte ma che poi sono riuscite a scamparla. Laura in particolare, ricordi uno, forse due incontri? Sì, sì, l'anno scorso e anche quest'anno abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di alcune persone che, grazie all'aiuto degli Stati europei, perfino anche del Papa o di altre o delle associazioni come la Comunità di Sant'Egidio, è riuscita per fortuna a salvarsi all'ultimo minuto dalla pena di morte, prima della condanna. È interessante vedere dal loro punto di vista il perdono, perché molte delle volte capitava, l'anno scorso era morta la moglie di questa persona che era stata condannata e invece quest'anno la nonna, che sembrava che sempre fosse stata appunto colpa sua, ma per fortuna era una persona innocente ed è riuscita a dimostrarlo, insistendo e sperando sempre fino all'ultimo. È interessante che perdonino gli assassini che magari sono ancora in libertà, non si sa veramente chi siano, e questa fiducia sempre verso il prossimo, nonostante abbia subito atroci sofferenze, venga stigmatizzato dalla società, letto nei giornali come una persona assassina, oppure chiuso tutti quanti i rapporti. In questo momento si vede se c'è l'amico che c'è sempre stato, se hai bisogno di te c'è o è assente. Quindi è vedere in casi di difficoltà come una persona riesce a rialzarsi. Ecco, bella esperienza anche questa di confronto con la società. E venendo invece all'Italia, dove è più caratteristica un'altra cosa, ne parlavamo anche nei giorni scorsi per l'iniziativa che c'era a Campolongo Maggiore, il Campolongo di giustizia sociale nella villa dell'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero. Le mafie, che ci sono anche da noi, infiltrazioni ce ne sono anche in Veneto, nel nord Italia. Anna e Giulia hanno partecipato a iniziative in questo senso. Anna? Sì, l'anno scorso e quest'anno abbiamo partecipato alla marcia contro le mafie, l'anno scorso a Firenze, quest'anno a Roma, e si consiste in questa marcia durante la mattinata e poi nel pomeriggio ci si divide in seminari dove si discute delle varie tematiche della mafia, ed è sorprendente quante persone partecipino a questa marcia. Voi avete insomma anche conosciuto questo tema, che magari insomma non è nei libri di scuola, perché nel libro di storia forse non si trova nemmeno nominata, però che idea ti sei fatta tu insomma di questo, o vi siete fatte insomma di questo argomento, la mafia? Anche lì sappiamo che ci sono molti film, personaggi insomma che la rappresentano. Vivendo queste esperienze, cosa hai imparato di nuovo oltre a quello che ci racconta il cinema? Che la mafia, come la pensano tante persone, non è soltanto al sud, ma è dappertutto, è davvero dappertutto, cominciando dal fatto che magari quando una persona non fa lo scontrino, per dire, è comunque una... come si può dire, un'evasione fiscale, quindi si comincia da questo, da poche cose. Esatto. Ecco, altra esperienza invece molto più positiva è la partecipazione che avete avuto, ed eravate in pochi perché lì il posto è abbastanza piccolo, l'incontro con Papa Francesco ad Assisi lo scorso 4 ottobre. Sì, siamo partiti il 3 ottobre 2013 e siamo arrivati appunto ad Assisi per assistere il giorno dopo, il 4 ottobre, all'incontro con il Papa. E appunto abbiamo partecipato alla messa tramite un videoschermo e l'abbiamo incontrato dal vivo. Ecco. Che era, insomma, era appena sette mesi che era diventato Papa, quindi ovviamente tutti cercavano di vederlo. Che effetto fa vederlo dal vivo? Beh, per me era la prima volta il vedere primo Papa. Sì, ecco. Il primo Papa che vedevo dal vivo, diciamo. E, beh, è una persona molto umile, si è presentata alla folla sorridente e senza nessuna particolare paura, salutava tutti, dava la mano, ci benediva. Una bella esperienza, sì, anche per voi. Siamo in chiusura, allora ci lasciamo l'ultimo minuto e mezzo per le aspettative per l'anno, ma alla parte finale, per Laura, classe quarta, quindi ancora un anno abbondante davanti, difficoltà particolari o auspici, aspettative per il finale? L'illuminazione, l'ispirazione di capire cosa fare cosa dopo fare? La quinta. Dopo sì. La quinta, ecco. E magari trovare qualcosa durante l'estate e fare qualche stage un pochino formativo che mi possa aiutare. Bene, allora in bocca al lupo. Anna e Giulia, magari hanno già pensato cosa fare da settembre oppure no? Non molto. No, non ne abbiamo idea. Non ne avete idea. Ovviamente vi state preparando per l'esame di Stato, ecco. Speriamo di sopravvivere alla maturità, ecco. Ecco. E speriamo che i professori siano clementi. Ma va bene, allora a nome dei professori do nel mondo un saluto finale. Sì, no, anzi, li abbiamo sentite, sono piene di vita, sono piene di creatività, fantasia e disponibilità. Ecco, io spero che la conclusione degli loro studi abbia da portare loro anche gratificazione, perché non sempre questo avviene dopo l'impegno, e possono trovare anche occasione per sprigionare nel mondo del lavoro, nel mondo della società, tutto il percorso formativo che talvolta può essere anche spesso anche faticoso, ecco, difficile, però con questa pezzone che abbiamo cercato di presentare, ecco, può essere veramente un auspicio positivo, e quindi le ringrazio di cuore. Grazie a te Don Edmondo, grazie a Laura, Anna e Giulia per essere state con noi, in bocca al lupo. Grazie. Crepi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.